Blu Radio Veneto. Dai colore alle tue frequenze. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Ed eccoci qua, buona serata a tutti. Oggi è martedì 31 maggio del 2011, ancora le ultime ore per goderci il mese di maggio che ci è stato fedele come sempre, ha mantenuto le sue classiche temperature, non ci ha fatto scherzetti particolari come potrebbe succedere a marzo. E noi siamo qua come tutti i martedì sera a proporvi la musica live, per proporvi sempre nuovi artisti, nuovi e vecchi, e anche rodati artisti come succede in questa serata. Intanto vi do il benvenuto, io sono Flavio Bilato, dall'altra parte del vetro Maurizio Calzavara. Buonasera Maurizio. Buonasera Flavio, buonasera ai nostri ascoltatori. Anche questa sera, come già anticipato, non siamo da soli perché parliamo di musica d'autore in questa serata. E diamo il benvenuto a chi ci è venuto a trovare da Brescia, quindi salutiamo Michele Gazic. Buonasera a voi innanzitutto, Flavio e Maurizio, e a tutti gli amici che ci ascoltano. Allora, Michele Gazic, tu sei arrivato da solo, anche se ultimamente fai parte di una flotta molto importante, la flotta della Nave dei Folli. Esatto, le Navi dei Folli tra l'altro sono effettivamente esistite, sai, sono stati i primi manicomi della storia, no? Ci venivano collocati i matti che venivano poi spediti sui fiumi dell'Europa. Questo avveniva fra 400 e 500, ma in fondo avviene ancora. Il nome mi è parso adatto per tanti motivi, per raccogliere delle persone attorno a me. Io ho costruito questo gruppo con persone che stimo profondamente a livello musicale e umano, e mi fa piacere menzionare subito gli altri membri dell'equipaggio. Certo, ricordiamolo. La cantante attuale Anna Petracca, Marco Lamberti che si occupa di chitarre varie e canta anche lui, e poi Fabrizio Carletto, il bassista, il cuore pulsante della nostra formazione, ma approfondiremo. Benissimo, allora benvenuto a Michele Gazic, salutiamo a distanza la Nave dei Folli. Io mi ricordavo anche un dipinto che era al Louvre, della Nave dei Folli. Esatto, di Bosch, giustissimo, forse non conosciutissimo, ma dava l'esempio di quello che poteva essere questo insieme in una piccola barca, tutti personaggi all'insegna dei vizi capitali di cui magari si muore nell'animo pur sempre. Sì, non siamo così appunto gravemente viziosi. Questa nave è più una metafora di come deve muoversi l'artista nel mondo di oggi, insomma, certo, nella sua nave. C'è un unico grande vizio, se vogliamo chiamarlo così, quello di far bene la musica. Ma si cerca. Sì, più che cercare, trovare, sviluppare. Questo è un progetto a cui hai cominciato alcuni anni fa, che hai continuato, e adesso siamo arrivati al terzo capitolo. Esatto, sì, forse anche per chi non ci ha mai ascoltati, i dischi di Michele Gazic, cioè La Nave dei Folli, si sono snodati in una trilogia. L'ultimo di questa trilogia, da cui comincerei ad ascoltare, si intitola Il giorno che la rosa fiorì. Vi parlerò di colori alla radio, ma c'è un mio amico che parla anche di, insomma, cinema alla radio, quindi forse insomma si può. Questo terzo album è rosso, è il colore dell'amore a cui è dedicato l'album in maniera non zuccherosa. Simbolo dell'amore è la rosa, e il brano che dà il titolo al mio album si intitola Il giorno che la rosa fiorì. Beh, allora potremmo già ascoltarlo. Sì, segnalerei che quando fiorisce di una rosa è il caso di coglierla, perché poi magari non c'è più. È vero, poi ne parleremo insieme. Intanto ci ascoltiamo questo primo pezzo per inaugurare questa bella serata con Michele Gazic, Il giorno che la rosa fiorì. Blu Radio Sera. Fiorì, il mio cuore era lontano, il giorno che la rosa fiorì, maledicevo il nome di Dio. Rosa da rosa, ombra da ombra, la rosa non ritorna se il cuore si riposa. Ombra da ombra, rosa da rosa, se il cuore si riposa. rosa non ritorna. Che la rosa fiorì come Sisifo salivò il monte, il giorno che la rosa fiorì come Sisifo spingevo la pietra. Pietra da pietra, rosa da rosa, il cuore si fa pietra se la rosa non ritorna. Rosa da rosa, pietra da pietra, la rosa non ritorna se il cuore si fa pietra. Il giorno che la rosa morì, il mio cuore batteva nel petto, il giorno che la rosa morì, troppo tardi per vedere la rosa. Rosa da rosa, cuore da cuore, la rosa non ritorna, non aspettare un'ora. Cuore da cuore, rosa da rosa, non aspettare un'ora, la rosa non ritorna. Il giorno che la rosa fiorì. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Ed eccoci qua, ascoltati anche il primo pezzo, il giorno che la rosa fiorì, diceva rosa da rosa, cuore da cuore, non aspettare un'ora, la rosa non ritorna. Quindi forse, Michele, permettimi, c'è un po' di fretta anche in questo pezzo, però nella fretta c'è anche la possibilità di non vedere la rosa che sta fiorendo. Esatto. E quando se ne accorge è troppo tardi. Sì, un invito a cogliere l'attimo nella vita, non sono certo il primo che lo dice. Il famoso carpe diem. Ecco, però sì. Un invito veramente a vivere la propria vita con pienezza. A un certo punto nella canzone si parla di Sisifo, no? Che sì, nella mitologia greca è quello che era obbligato, che era condannato a spingere un masso fino alla cima di un monte. Arrivato in cima, il masso rotolava e doveva rifare il suo lavoro, simbolo della fatica inutile. Come tante volte anche il nostro lavoro, nel quale siamo immersi alle volte più del dovuto, e ciò ci impedisce di vedere lo sbocciare di molte cose, non solo delle rose. Certo. Musicista come te, che ha fatto più di 40 partecipazioni, hai suonato con chiunque? Beh, non proprio. No, ma con tanti, sì, con tantissima gente. Con tanti, sì, è una questione di amore la musica. Io ho in mano un violino da quando ero un bambino. Del 1930 il tuo violino, devo ricordarlo. Sì, è quello che suono oggi, tra l'altro, ancora. È un violino che mi regalò mio padre nell'85, e da allora suono appunto sempre, insomma, quello stesso violino che mi ha accompagnato per tutto il mondo. Ho provato anche a distruggerlo, voi che potete osservarlo, ci sono anche delle crepe significative, gli è stato riattaccato. Un giorno ho chiesto al mio liutaio, quando si era gravemente danneggiato una volta, ma suonerà come prima? E lui mi ha detto: Michele, nella vita è niente è mai come prima. È vero, ma in effetti abbiamo avuto modo di sentirlo prima durante le prove, e devo dire, insomma, per noi che non ne intendiamo fino in fondo dello strumento del violino, che sta suonando bene. È un bellissimo violino, poi a questo punto lo conosco bene, fatalmente. E una cosa, ritornando a questo pezzo, al cosiddetto title track, l'idea di questa pseudo giga, questo pezzo abbastanza veloce con doppia voce. Hai creato te, l'idea è partita da te. Sì, è nato da una insomma particina di violino molto semplice a cui potrei alludere, se la sentite. E questa cosa è il violino che si accompagna da solo, no? A bicorde, cioè invece che suonare una nota sola ne suona due, e ricorda un po' la ghironda, no? Che è uno strumento tipico della musica occitana. L'Occitania è un'area vastissima culturale che va dal basso Piemonte, attraversa la Provenza e arriva fino appunto nei Paesi Baschi. Dovrebbe essere tipo la Languedoc, no? Quella sì, che... qualcosa del genere, e comunque arriva anche al basso Piemonte, dove vive il bassista della Nave dei Folli, che per buona parte della sua vita ha suonato musica da ballo. Di conseguenza, se non ha lui il senso del ritmo, chi ce l'ha? Penso certo, io. Ecco, certo. È anche per quello che è stato selezionato. E, comunque, frequentando lui e il suo mondo, Fabrizio è di Vernante, in un paese a pochi chilometri dalla Francia, e mi sono anche avvicinato alle danze piemontesi, la curenta e il ballet si chiamano, e poi alla musica appunto più strettamente di occitana, e in qualche modo ne sono stato influenzato. Questa più che una giga forse è una burré, credo che si possa definire, ma dovremmo chiedere ad esperti di ballo a questo punto. E comunque è una cosa incredibile, perché da quelle parti la musica popolare non ha avuto bisogno di essere risuscitata, non ha avuto bisogno di un doping, ma è stata sempre appunto presente, e ancora oggi i figli ballano il ballo dei padri da quelle parti. Proprio è una cosa che mi ha sempre colpito e che in qualche modo è entrata anche nel mio cuore e nella mia musica. Infatti io sono comunque spesso là. Fabrizio ironicamente parla delle sue zone, degli abitanti di quelle parti come diversamente settentrionali, nel senso che sono settentrionali particolarmente chiassosi e cacciaroni, e non appunto riservati come dalle mie parti, per esempio Lombardia. Bello questo, diversamente settentrionali. Settentrionali. Ce lo ricorderemo, anzi ce lo ricorderemo a tal punto che, visto che la trasmissione è anche registrata, avrete modo di sentirla ancora una volta durante guardando internet, sistemeremo il podcast che riguarda anche questa trasmissione. Quindi Michele è un musicista a 360 gradi, hai suonato con tantissima gente, hai suonato con un mio idolo assoluto, si chiama Eric Anderson. Eric Anderson è un amico carissimo innanzitutto, è ormai 12-13 anni che suoniamo assieme, credo, e ci siamo frequentati al punto tale da andare in vacanza insieme l'estate scorsa. E con Eric tra l'altro abbiamo fatto un disco che è uscito quest'anno, tra l'altro disco nuovo di Eric, che è uscito per un'etichetta tedesca, Meyer Records. È un disco bellissimo secondo me. Eric è uno dei grandi poeti della canzone. Io penso sempre, quando suono con lui, che lui ha fatto il suo primo disco 4 anni prima che io nascessi, quindi insomma è necessario avere un certo rispetto. Hai perfettamente ragione. Io ho un disco che ho sentito centinaia di volte di Eric, è The Deliver, che secondo me considero un disco epocale, bellissimo. Sì, è un disco meraviglioso, e Eric è riuscito negli anni a ribadire questa sua poetica che io ammiro, anche perché è molto intima, poco urlata, no? Esatto. Parlavamo prima di questo argomento, che a me piace anche nella mia musica sussurrare in tempi in cui tutti urlano, no? Certo. Eric gli è sempre stato molto delicato e intimo, infatti è un poeta della canzone d'amore anche lui innanzitutto. E quindi il disco rosso. Sì, e quindi il disco rosso, giusto? In effetti Eric mi ha dato una mano tra l'altro nelle traduzioni inglesi per questo disco, ed è una cosa che ovviamente ho apprezzato moltissimo, ed è stato uno scambio che mi ha profondamente arricchito. Sì, tra altre cose bisogna ricordare che nei bootleg presenti nei CD ci sono proprio le canzoni con proprio la traduzione in inglese. Ma un'altra cosa che non ci è sfuggita è il vedere che tu scrivi le date di inizio e di fine di ogni canzone, quindi sia per il testo sia per la musica. Sì, come appunto ti dicevo, scrivo data di inizio e di fine e luogo anche di composizione, con l'auspicio, quando la mia mente verrà meno, di ricordarmi quando e come nacquero queste cose. ecco, per rimanere impresso, che deve rimanere impresso. Benissimo, allora ascoltiamo un altro pezzo, sempre tratto dall'ultimo lavoro di Michele Gazzi, cioè La nave dei folli, sempre da Il giorno che la rosa fiorì. Abbiamo scelto la traccia numero 8 che si intitola Fuoco nero su fuoco bianco, e poi torniamo a commentarla insieme. Blu Radio Sera. Fuoco nero su fuoco bianco, se la notte si scioglie in pianto. Fuoco bianco su fuoco nero, al mattino sarai sincero. Fuoco nero su fuoco bianco, sotto il sole un uomo è stanco. Fuoco bianco su fuoco nero, mangia il libro amaro amaro. Mangia il libro amaro amaro. Fuoco nero su fuoco bianco, se la notte si scioglie in pianto. Fuoco bianco su fuoco nero, al mattino sarai sincero. Fuoco nero su fuoco bianco, dentro il fuoco fiorisce il vento. Fuoco bianco su fuoco nero, questo è un fiore di paura. Questo è un fiore di paura. Su fuoco bianco, se la notte si scioglie in pianto. Fuoco bianco su fuoco nero, al mattino sarai sincero. Fuoco nero su fuoco bianco, le campane si fanno canto. Fuoco bianco su fuoco nero, rosa sciolta come cera. Rosa sciolta come cera. Blu Radio Sera. È così bello, voglio dire, parlare ancora di musica anche a microfoni spenti, che avremmo lasciato andare il disco per tutta la serata. Stavamo già ascoltando un'altra parte di CD. Infatti stavamo ascoltando l'inizio del pezzo successivo, Scene da un matrimonio, sul quale però sorvolerei per ora. Torniamo a questo pezzo, che è Fuoco nero su fuoco bianco, che abbiamo appena ascoltato. Mi fa piacere osservare quello che c'è anche scritto nel libricino del CD, che nella tradizione ebraica fuoco nero su fuoco bianco è la scrittura della Bibbia, o appunto della Torah in particolare, cioè i primi appunto 5 libri della Bibbia, ed è una emozionante descrizione della pagina scritta, no? Che ci aggredisce al punto tale da bruciarci, ed è un'immagine meravigliosa e che si può, al di là della Bibbia, applicare anche a tanti scritti. Meglio farsi bruciare dai libri invece di bruciare i libri, dicevamo. Bene, a proposito di Bibbia, ci sono frequenti, diciamo, prese dalla Bibbia, dall'Antico Testamento, e in particolare poi anche dagli Atti degli Apostoli. Mi sembra di capire che ci sia anche un qualcosa riferito a San Paolo, che sulla strada di Damasco, mi riferisco appunto al pezzo verso Damasco, poi ancora mitologia con Sisifo ricordato prima, ancora citata la Gerusalemme, poi ci sono miriadi di citazioni. Diciamo che avendo sempre la Bibbia al seguito, è fatale, insomma, che come dire, influenzi decisamente la mia scrittura, anche perché non sta certo a me magnificare le qualità della Bibbia per tanti motivi di fede e non. È un testo di una ricchezza tale che comunque l'esplorazione che se ne fa senz'altro non viene conclusa nella vita di ognuno di noi. C'è sempre qualche cosa che ancora non hai comunque approfondito e osservato. Quindi il mio è solo un tentativo di aprire degli spiragli, insomma. E come nasce il tuo pezzo? Prima hai fatto sentire l'inizio della title track, come l'hai creata? Questo pezzo come l'hai creato? Come l'hai sviluppato? Fuoco nero su fuoco bianco, innanzitutto l'immagine, mi ha colpito molto questa immagine quando sono giunto a contatto, approfondendo appunto la Bibbia, certo. Mi è sovvenuta questa immagine che mi è rimasta in testa e mi è girata a lungo, ho scritto la canzone per lungo tempo infatti, e alla fine mi faceva piacere che fosse una canzone quasi ossessiva, che girava circolarmente su di sé continuamente, e come dire, e ci prende nel suo fuoco e nel suo vortice, nelle sue fiamme. Infine, questa era l'immagine che mi ha guidato anche nella costruzione dell'arrangiamento, che è molto ricco perché ci sono ben due bassi che danno il ritmo, c'è una chitarra elettrica, ci sono vari archi, alcuni che accompagnano, altri che fanno i soli, Anna Petraca che declama questo testo, e alla fine la rosa che si scioglie come cera tra le fiamme. Quindi i pezzi sono stati, cioè le tracce sono state inserite non casualmente ma volutamente in questa selezione. Sì, sì, ho cercato di, come cerco sempre di fare in ognuno dei miei CD, di raccontare una storia, certo, in un certo senso, e quindi mi fa piacere accompagnare l'ascoltatore dall'inizio alla fine. Possiamo dire un mini concept album, è giusto, Michele? Sì, sì, sì, è molto giusto. Gli pezzi sono tra di loro concatenati, infatti citava prima Flavio Verso Damasco, il brano che un'altra cosa è bellissima, se avrò modo di ascoltarla più tardi. Sì, molto, sì, coraggio per incidere, sì, un pezzo di superiore di un certo minutaggio come pezzo, infatti, iniziale. Forse il pezzo meno radiofonico, nel senso che raggiunge quasi i 9 minuti, non so, sarà dura, però magari prima o poi vedremo di metterlo su, però è sicuramente il pezzo più importante per me, in realtà è quello che ho messo come apertura, e il messaggio è in sostanza che se non abbiamo l'amore non possiamo che cadere nella vita, questo è il discorso. Certo, tra le altre cose avevo osservato, poi passiamo alla musica dal vivo, visto che hai portato il tuo violino, vogliamo sentirti suonare qui dal vivo nei nostri studi. Tra le altre cose, Fuoco Nero su Fuoco Bianco ha un po' un carattere internazionale, se vogliamo dirlo, perché l'hai registrato un po' in Germania, più, insomma, in Francia, in Italia. Più, insomma, che registrata, l'ho, insomma, composta in questi luoghi, perché mi trovavo per l'appunto in giro a suonare per svariati motivi. Sì. E quindi nel mentre che vedevo alcuni luoghi facevo procedere la mia immaginazione, e questo Fuoco Nero su Fuoco Bianco mi ha in effetti accompagnato per lungo tempo, insomma mi è stata accanto nel 2009 un po' per tutta l'estate. Avevo cominciato a lavorarci a Colonia, che è una città a cui sono legatissimo in Germania, la meravigliosa cattedrale, tra l'altro non a caso ho registrato lì l'album poi con Eric, okay, e l'etichetta che l'ha stampato è di Colonia. Poi vabbè, Venezia, mi sono mosso verso appunto Venezia, sempre poi in quell'estate guardando questi luoghi. Sono poi stato a Parigi, anche in effetti è una canzone veramente, mi fa osservare io adesso questa, sì, cosa, no? Ecco, anch'io me ne sto sincerando ora, però la composizione della musica si è conclusa a Schwäbisch Hall, sì, che è un luogo meraviglioso in Germania, nel Baden-Württemberg, dove noi suoniamo abbastanza regolarmente ogni anno, ed è una cittadina quattrocentesca meravigliosa, essendo fuori da rotte strategiche, tra l'altro non è stata bombardata nell'ambito della seconda guerra mondiale, e ha mantenuto questa sua integrità, un luogo che consiglierei a tutti. Perché, Michele, secondo te la città di, cioè, in Germania ci sono molte, molte persone che amano la tua musica, c'è un'affinità, un collegamento? Ho elaborato una teoria che non è detto che sia poi quella definitiva, e penso che per anche la formazione che ha il pubblico tedesco riconoscano e valorizzino anche il retroterra classico che c'è nella mia musica, ed è un qualcosa che parla a loro. Questa è la mia impressione, avendo anche parlato con alcuni amici tedeschi. Perfetto. Vabbè, allora adesso, Michele, cosa dici? Prendiamo questo violino del 1930 per sentire qualcosa? Sì, direi poi di sì, rigorosamente, per l'appunto dal vivo. Vi eseguirò una versione strumentale della canzone Dal fondo del mare, che fa parte del primo CD della Nave dei Folli, che è bianco e del quale magari parlerei dopo, ma certo, intanto vi faccio ascoltare questa cosa estremamente classica. Benissimo, allora col violino Michele Gazzi ci regala queste sue splendide sonorità, e quindi buon ascolto. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Eccoci qua, carissimi ascoltatori, siamo ancora all'interno di Blu Radio Sera, programmazione serale di Blu Radio Veneto. Ancora buona serata da parte di Flavio Bilato, Maurizio Calzavara. Anche in questa serata non siamo soli, siamo in compagnia di un grande violinista, Michele Gazic, che è venuto a presentarci la sua musica e la sua flotta, perché no, la Nave dei Folli, che con lui collabora per questi magici dischi, oserei dire sono ben tre, ed è un peccato a volte essersi accorti tardi dell'esistenza di questi dischi, perlomeno parlo per me, nel senso che ti ho conosciuto dal terzo CD, poi adesso vedrò di conoscere qualcosa di più, e già lo stiamo facendo anche dei precedenti due lavori. Michele. Infatti a questo punto la mia idea bizzarra, folle appunto, era di incontrarli in diretta a questo punto, gli altri con te, no? Così almeno sì, certo, ce li ascoltiamo assieme e ci raccontiamo due cose a questo punto, visto certo, che siamo qua. Certo. L'avventura inizia con l'album bianco, vero Michele? Esatto, l'album bianco viene pubblicato nel dicembre 2008 e lì inizia l'avventura della nave dei Folli. La prima canzone del mio primo CD ha un titolo che ha fatto sorridere tanti: L'idiota è tornato in città. In effetti è abbastanza audace cominciare la propria carriera solista con una canzone dal titolo L'idiota è tornato in città. Mi fa piacere però, al di là di altre cose che emergeranno nell'ascoltarla, a questo punto, visto che sono passati degli anni e tanti hanno sorriso, dire che c'è una fonte però molto importante dietro, cioè niente po' di meno che San Francesco, che parlando di sé e dei suoi fratelli in un testo poco letto, insomma, tra l'altro il suo testamento dettato negli ultimi giorni di vita, scrive: et eramus idiote et subditi omnibus, e noi eravamo idioti e sottomessi a tutti. Da lì è nata questa immagine dell'idiota, come dire, la persona pura di cuore che vede le cose per quello che sono. Ma comunque, se hai voglia, proverei ad ascoltarla con te, è breve tra l'altro. Benissimo, allora perché no, l'ascoltiamo e poi torniamo a fare un piccolo commento insieme. Restate con noi. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. L'idiota è tornato in città, ha le tasche piene di pioggia. L'idiota non vi fa carità, Dostoevsky è un cocktail di vodka. L'idiota è tornato, l'idiota è tornato, l'idiota è tornato in città. L'idiota è tornato, l'idiota è tornato, l'idiota è tornato in città. L'idiota beve le tue bottiglie, poi dorme e rivela un sorriso. L'idiota gioca in spiaggia alle piglie, la sua vita non ha strada, solo bivi. Troppi passi da rifare, troppe mani da toccare, troppe notti da dormire, senza letto e senza vino, troppi treni per andare, troppe lacrime a Natale, troppi morti e poche bare per chi suona violino. L'idiota è tornato in città, è sordo e ci sente lo stesso. L'idiota la sa la verità, con le vostre mogli ci fa solo sesso. L'idiota è tornato, l'idiota è tornato, l'idiota è tornato in città. L'idiota è tornato, l'idiota è tornato, l'idiota è tornato in città. L'idiota vola con le farfalle, parla solo sabbia in bocca. L'idiota vede il buio nel sole, Dostoevsky è un cocktail di vodka. L'idiota è tornato, l'idiota è tornato, l'idiota è tornato in città. L'idiota è tornato, l'idiota è tornato, l'idiota è tornato in città. Blu Radio Veneto, come non l'hai mai sentito. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Insomma, è il caso di dire tutti allegri, l'idiota è tornato in città. Questo era il primo disco della trilogia, 10 canzoni di Michele Gazic, La nave dei folli. L'album della purezza, l'album bianco. Sì, l'album in cui molto doveva essere ancora scritto, no? La pagina era bianca. Esatto. E mi fa piacere anche presentare le altre persone che erano con me all'inizio dell'avventura, perché nell'equipaggio ci sono stati vari avvicendamenti. Il basso era sempre quello perfetto di Fabrizio Carletto, ma al pianoforte avevamo un pianista, cantautore, Beppe Donadio, mentre alla voce avevamo Luciana Vaone. Bene, abbiamo ricordato anche l'altra nave dei folli, si può dire. Sì, ci sono stati avvicendamenti progressivi. A me piace ritenere questo gruppo, per definizione, una sorta di collettivo aperto. Insomma, piano piano sta in effetti, come dire, coagulandosi in un insieme di persone, ma mi piace pensare che possano esserci sempre nuove entrate e uscite. Questo l'album all'inizio della trilogia era più ancorato leggermente verso il folk, Michele, oppure no secondo te? Ma era un album abbastanza particolare per la sua scelta spartana, era bianco ed inoltre erano pochi gli strumenti impiegati. Basti dire che come negli altri album della Nave dei Folli non c'è la batteria, in certo, effetti, ma in questo caso non c'era neanche la chitarra. Eccovi. Ed è un album in cui non c'è la chitarra, il primo, anche perché ho passato tutta la mia vita a suonare con appunto tanti cantautori e sentire sempre la loro chitarra nelle orecchie, che mi sono detto: ma per un disco facciamo senza, poi dopo magari la rimettiamo. E così ho fatto. Bene, invece con la batteria c'è un conto aperto. No, no, no, io tra l'altro amo la batteria e ci sono tanti batteristi amici con i quali ho suonato. Uno su tutti è la De Bandini, grandissimo batterista. Sì, esatto. Lo storico batterista di Francesco. Sì, sì, sì, ha suonato con tanti. Certo. Lui ha fatto molti più dischi di me, in effetti. Beh, ai 47, insomma, sì, sì, sono pochi. Ma comunque sì, no, non ho un conto aperto. Lo ricordo con i Giganti, mi sembra, no? Sì, no? Ma poi ha suonato con De André, ha suonato con tutti, ha suonato anche con Mina, per dire, no? Certo, è una persona estremamente eclettica. E comunque sia, amo la batteria, ma mi piaceva avere una scelta un po' più intima, e fatalmente se si utilizza la batteria è necessario alzare un po' i volumi, mentre invece mi piaceva avere questo suono più compatto, come dire. Sì, i volumi delicati, possiamo dire così. Sì, sì, sì, poi non è che siamo leziosi, però siamo abbastanza tranquilli, proprio non vogliamo urlare in tempi in cui tutti urlano, insomma, come dicevamo prima, paladieri. Allora, una domanda: quando hai cominciato con le prime note di questo primo CD che si intitola 10 canzoni di Michele Gaggic, già pensavi che ci sarebbe stata una trilogia? Era nelle tue idee? Vagava nell'aria? Oppure l'hai scoperto dopo? Dunque, io avevo in mente questa idea all'inizio. Non pensavo di riuscire a realizzarla, a dirti la verità, perché quando ho cominciato ritenevo già un risultato estremamente significativo aver fondato un'etichetta, avere pubblicato un CD, avere un qualche riscontro. Poi i riscontri e le vendite, anche le recensioni, insomma, alla fine tutto ha fatto sì che ne abbiamo potuti fare altri, ma quando abbiamo cominciato non lo davo affatto per scontato. Sei stata una forza dirompente che tu hai deciso di continuare, perché il successo, se mi è consentita l'espressione, è cresciuto di giorno in giorno, di momento in momento. Sì, sì, beh, poi al di là, io non amo mai i toni trionfalistici, ma attorno a noi si è creato una sorta di movimento, direi, una cosa poi di questo genere, e mi fa piacere che ci siano tante persone per tutta l'Italia e all'estero che, come dire, condividono come dire, dei valori comuni con noi, che decidono di stare dalla parte degli idioti che amano. Abbiamo condiviso anche noi i nostri valori e i tuoi valori, soprattutto anche il nostro direttore artistico Alberto, che ti ha scovato e che ha voluto stasera, Alberto Pisco, che ha voluto fortissimamente che tu fossi qui stasera. Ma lo ringrazio molto. Tra le altre cose, da ricordare che Michele Gaggic già conosceva la strada, esatto, per arrivare da noi, perché è già stato qui qualche anno fa, ha presentato ancora delle sue collaborazioni, in particolare ce lo ricordiamo con Massimo Bubola. Infatti era l'abbastanza lontano 2004. Sì, esatto, e sì. Comunque mi ricordo con affetto quella, insomma, trasmissione. Mi era rimasta impressa l'atmosfera informale in cui alla fine si riescono a raccontare tante cose. Poi di solito i tempi radio sono incredibilmente compressi, e qua mi fa appunto piacere che ci siano degli spazi in cui si può effettivamente parlare e non vagamente alludere a qualcosa. Benissimo, allora adesso ascoltiamo un altro pezzo da quello che chiamiamo album bianco, ricordando anche un po' i Beatles, sì, che avevano fatto il loro White Album e così via. Parvalicet. Ecco, quindi da 10 canzoni di Michele Gaggic ci ascoltiamo anche questo pezzo, e il secondo pezzo si intitola Guerra Civile. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Dio sopravvive nei dettagli, nelle crepe dei centri commerciali. Dio sopravvive nei dettagli, il coltello con la lama che non taglia. È guerra civile, la domenica impiccano i poeti. È guerra civile, in piazza uova di serpente. Dio sopravvive nei dettagli, alla verde di farfalla alla finestra. Dio sopravvive nei dettagli, al buio la musica è più forte, è guerra civile, fucili, funerali e poi le nozze. È guerra civile, battesimi in fiumi senza acqua. Sopravvive nei dettagli, nelle carte nascoste, nei muri d'Italia. Blu Radio Veneto. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Abbiamo ascoltato un altro pezzo davvero significativo da La nave dei folli, 10 canzoni di Michele Gazdic, un album del 2008, e abbiamo qui Michele proprio a commentare con noi queste magiche canzoni. D'altre cose, guerra civile, non era la guerra vera e propria, ma contatto moderno, diciamo. Sentivo parlare di centri commerciali. Esatto, infatti il primo verso di questa canzone dice, come avete sentito, Dio sopravvive nei dettagli, nelle crepe dei centri commerciali. Del fatto che io personalmente non ho grande simpatia per i centri commerciali, ma lo dici perché non hai simpatia per... è una mia questione strettamente personale, neanche tanto legata agli articoli si vendono, ma sì, ne parlavamo prima, sì, un episodio molto divertente. Quasi tutte le canzoni di questo primo album della Nave dei Folli sono nate mentre ero in tour con un cantautore statunitense, Mark Olson, grande maestro. Mentre ero in tour con Mark, è stato defatigante perché abbiamo fatto 330 concerti in un anno e mezzo, al di là della resistenza umana. Come se non bastasse, quasi ogni giorno, oltre al concerto, andavamo anche nel centro commerciale della zona, di una particolare catena, e dovevamo presentare l'album, dire due cose, suonare una canzone. A questo punto per me era diventato un incubo, e quindi ho dovuto pensare a un Dio che sopravvivesse nelle crepe di questi centri commerciali, sennò era veramente troppo. Ma secondo te esprimersi nei centri commerciali, a parte un risultato economico, come dire, se suonato naturalmente non le 330 volte, ma suonato le 5 o 6 volte, può portare a qualcosa? Ma, perché c'è questa distrazione massima, no? Non so, insomma, per me non sono stati dei momenti lieti, questo è quello che posso dirti personalmente. Poi non sono così un esperto di marketing per dire se la cosa ha funzionato. Comunque non bisogna porre limiti alla provvidenza, può anche essere che magari facendo queste cose nei centri commerciali qualcuno che non ci avrebbe mai pensato abbia magari cominciato a riflettere su alcune parole che anche Mark utilizzava nelle sue canzoni, parole pesanti come salvezza. Il suo album si chiamava Salvation Blues, l'album che stavamo promuovendo. Mark è stato un grande maestro per me nel farmi riflettere sull'utilizzo di parole pesanti, insomma, nelle canzoni, nel un certo massimalismo, proprio amore, morte, salvezza. Benissimo, sì, Mark è un grande maestro, ricordiamo che è l'ex leader fondatore di J-Ox, quindi un gruppo straordinario americano, un gruppo indie così chiamato, molto interessante, che ha fatto grandi dischi e una grande epopea musicale. Ma sì, sicuramente, tra l'altro è sempre appunto in azione anche lui, ora qua, ora là, collaboriamo, è un personaggio infatti che mi fa piacere citare, perché magari è poco noto in Italia, ma è stato veramente influente per un certo tipo di musica. E tante collaborazioni made in USA, Michele, come mai? Vicine agli Stati Uniti. Ma tutto è nato per il mio desiderio di approfondire tradizioni folk, non solo appunto europee. All'inizio della mia carriera musicale, nel 92, ho avuto la fortuna di cominciare a collaborare con Michelle Shocked, cantautrice americana con la quale suono ancora oggi, e in quel momento lei aveva pubblicato un album che gli intenditori di musica magari ricordano, dal titolo Arkansas Traveler, certo, che era proprio un approfondimento delle tradizioni folk americane. E diciamo che la mia curiosità sul folk inglese, americano e, come avete sentito prima, occitano e altre cose, mi ha spinto alla fine a tutte queste collaborazioni. Poi, come sempre avviene nella vita, ci si ritrova su di un palco a suonare assieme con altri artisti, insomma alla fine ci si conosce più o meno direttamente, e così sono nate tutte queste collaborazioni a catena, diciamo. Allora adesso, Michele, ti diamo una spinta noi, ti invitiamo ancora una volta a prendere mano al tuo mitico strumento. Molto bene, vi suonerò a questo punto con uno stile diverso rispetto a quello con cui ho suonato prima, con il quale ho suonato prima. Avete ascoltato una canzone di matrice classica, la canzone Dal fondo del mare. Ora vi eseguo una versione di La tua mano, il mare, le stelle, un brano contenuto nel terzo album della Nave dei Folli, quello che ascoltavamo prima, quello rosso. Speriamo di non creare troppa confusione nella mente degli ascoltatori. Ad ogni modo, qua il violino si muove a B cordi e si accompagna da solo. Ora ve la faccio ascoltare. Benissimo, allora ricordiamo i nostri ascoltatori che abbiamo ospite nei nostri studi qui di Blu Radio Veneto un grande maestro al violino, Michele Gazic, che ci sta proponendo quella che è la sua trilogia di CD e adesso questo pezzo. A te, Michele. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Blu Radio Veneto. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Allora abbiamo ascoltato La tua mano, il mare e le stelle. Tra altre cose, nella versione da disco la scopriamo cantata da Anna Petracca e da Marco Lamberti, che si incontrano e si sovrappongono in questa canzone. Esatto, nell'album è una sorta di duetto tra Marco Lamberti, che oltre a suonare le chitarre canta anche, e Marco ha uno stile quasi recitativo, per cui quasi recita il testo, mentre invece Anna canta proprio la melodia, ed è la canzone è una sorta di ninna nanna, come avete sentito, e lei è come dire, come una madre che lo avvolge e lo culla. Questo almeno visualizzo io quando sento la canzone. Segnalerei così ai veneti in ascolto che se vanno a Venezia, arrivano vicino al ponte di Rialto, piazza Goldoni, insomma da quelle parti là, sì. Vanno avanti poco dopo in direzione San Marco, in una casa sulla sinistra, procedendo in quella direzione a pochi metri proprio dalla piazza dove c'è il monumento di Goldoni, vedranno su di una casa una sorta di lapide marmorea dove sono per l'appunto raffigurati una mano, il mare e tre stelle. Quando ho visto quella cosa, in qualche modo c'è stato il primo spunto per la canzone. Benissimo, quindi abbiamo dato un altro spunto per non essere solo turisti a Venezia, ma per andarsi a gustare anche i posti alternativi, e quindi, perché no, caccia grossa per andare a vedere questo simbolo davvero particolare che ha ispirato anche Michele. Quindi diversi spunti per utilizzare per costruire i tuoi pezzi, Michele. Ma sì, perché secondo me è... credo che bisogna cercare, almeno questo è il mio invito, bisogna cercare di avere sempre curiosità, tenere gli occhi aperti, e tante volte, almeno così è capitato a me, anche luoghi visti migliaia di volte nella vita, tipo passare a Venezia vicino, certo, al ponte di Rialto, quante volte ci siamo appunto passati. In quella circostanza ho comunque alzato gli occhi e ho visto questa cosa che mi ha dato uno spunto poi importante, insomma, ecco. E nasce prima la musica o prima il testo, Michele? È successo di tutto in conclusione, quindi mi risulta difficile fornire una spiegazione definitiva su appunto questa famosa domanda. In effetti non saprei, perché è successo di tutto, e penso che le volte in cui le cose sono venute meglio, tuttavia quando a uno spunto melodico erano già sovrapposte alcune parole che hanno creato come dire una sorta di refrain, di ritornello, di motivetto musicale che poi tornava continuamente nella canzone. Quindi non bisogna lasciarsi scappare l'ispirazione, quando arriva tac, bisogna prendere immediatamente. E questo era un po' il senso della canzone Il giorno che la rosa fiorì, della quale parlavamo, certo, prima, no? Chissà, alzando gli occhi vicino al ponte di Rialto magari si vede qualcosa di non visto prima, cioè ignorando i negozi un po' così che ci sono nella zona. Sì, okay, vabbè. Vabbè, allora una Venezia fantastica, una Venezia misconosciuta, però insomma validi approfondimenti. Ricordiamo cosa succede il 25 giugno, Michele. Esatto, il 25 giugno nella mia città natale, quindi Brescia, si svolge un concerto che ormai è il terzo anno che ripetiamo. Si svolge in un meraviglioso chiostro quattrocentesco, è il chiostro di San Giovanni, ed è anche la circostanza in cui si raccolgono fan, amici, simpatizzanti della Nave dei Folli dall'Italia e dall'estero, e quindi è una circostanza molto lieta e festosa. Quindi sabato 25 giugno ore 21 Brescia, noi siamo in concerto ed è una bellissima circostanza. Quindi un free assoluto di musica, una libertà totale musicalmente. Sì, è una serata estremamente gioiosa, insomma, in cui veramente incontro tantissimi amici. Tra l'altro la cosa che mi ha fatto tanto piacere è che grazie alla mia musica persone provenienti da regioni, stati diversi addirittura, si sono poi incontrate e nel mio nome hanno cominciato a frequentarsi, e poi hanno fatto anche approfondimenti al di là di Michele Gazzec e la Nave dei Folli tra di loro. Questa è una cosa molto bella. Decisamente molto positiva. Bene, quindi assolutamente un elemento aggregante. Come in questa serata Michele Gazzec ci sta presentando la sua trilogia di tre CD, per l'appunto. Abbiamo cominciato parlando del CD rosso, chiamiamolo così, Il giorno che la rosa fiorì, che è proprio l'ultimo lavoro di Michele, per poi andare a vedere anche e quello che è racchiuso all'interno dei due CD precedenti, quindi 10 esercizi per volare, che è il numero 2, e poi ancora le 10 canzoni di Michele Gazzec, che è proprio la prima esperienza con questa Nave dei Folli. Allora andiamo ad ascoltare qualcosa dell'album Blu, quindi l'album Blu che parla appunto dei 10 esercizi per volare, e allora ci ascoltiamo per l'appunto la traccia numero 1, che è la canzone Della pietra che rotola, e poi torneremo qui insieme a parlarne. Blu Radio Sera. e sento che dentro stringe una colomba, pietra che rotola fa le piume, la pietra diventa colomba, dalla pietra nasce una colomba, pietra che rotola si ferma e guarda, vedo il sole nel cielo, pietra che rotola diventa il sole che sveglia gli uomini e i cani, che sveglia gli uomini e ti scalda le mani. Pietra che rotola non fa muschio, pietra che rotola che non pesa, pietra che rotola non fa le case, pietra che rotola e finisce mai. Pietra che rotola come ti senti, pietra che rotola non vale una lira, pietra che rotola nella corrente, pietra che rotola non prende la mia. Pietra che rotola si ferma e parla, ai turisti mostra le ferite, pietra che rotola urla e parla, come Paolo nelle piazze d'Oriente, come Giovanni i quattro venti. Pietra che rotola si ferma e canta, bocca di pietra canzoni dolci, pietra che rotola canzoni antiche, con l'inizio e senza la fine, con tanti inizi ma senza un finale. Pietra che rotola non fa muschio, pietra che rotola che non pesa, pietra che rotola non fa le case, pietra che rotola finisce in mare, pietra che rotola come ti senti, pietra che rotola non vale una lira, pietra che rotola nella corrente, pietra che rotola non prende la mira. Pietra che rotola si ferma e ascolta il rumore del fiume che scorre, pietra che rotola è la prima volta, non rotola, non cade, non corre, si gode il fiume, la pace e la terra. Pietra che rotola si ferma e cambia, cambia forma con lo scultore, pietra che rotola si fa sottile, mani di angeli e ali d'oro, dita di angeli e sogni d'oro. Pietra che rotola non fa muschio, pietra che rotola che non pesa, pietra che rotola non fa le case, pietra che rotola e finisce in mare, pietra che rotola come ti senti, pietra che rotola non vale una lira, pietra che rotola nella corrente, pietra che rotola non prende la mira. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Ed eccoci qua, sono le 22 passate da qualche manciata di secondi. Siete ancora con Blu Radio Sera, sempre con Flavio Bilato, Maurizio Calzavara e sempre con il nostro ospite Michele Gazic. Ci stiamo veramente deliziando le orecchie ascoltando queste canzoni di Michele, per l'appunto, e questa volta abbiamo ascoltato Song of the Rolling Stone. Sì, come dice la traduzione inglese, insomma. questa canzone della pietra che rotola, si chiama ovviamente in italiano, e in effetti proprio nasce proprio da questa immagine della pietra che rotola che tutti associano al cantautorato americano, ad esempio Like a Rolling Stone, i Rolling Stone, la canzone I'm a Rolling Stone di Muddy Waters, oppure I'm a Rolling Stone on a Lost Highway, cioè sono una pietra che rotola su una strada persa di Hank Williams, e così via. Io senza pretendere di aver trovato, come dire, l'archetipo per tutto ciò, ho notato, come tanti sanno, che c'è il proverbio inglese Rolling Stones Gathers No Moss, cioè pietra che rotola non fa muschio, e c'è un tizio che si chiama Joe Hill, avventurosissimo personaggio americano morto nel 1915, avventuriero, sindacalista, viaggiatore su appunto treni merci, tutte queste cose, volle scritta questa frase sulla sua tomba. Lui è anche autore di tante canzoni folk, magari chissà che non sia stata una influenza così importante in questo senso. Io volevo solo precisare, essendo italiano, per una sorta di campanilismo, ma anche solo per, come dire, sottolineare che tante cose vengono da noi, come è noto, che Rolling Stones Gathers No Moss, cioè pietra che rotola non fa muschio, è la traduzione di un proverbio latino: saxum volutum non obducitur musco. Bene, perfetto. Allora, queste cose dobbiamo scrivere, Maurizio. Assolutamente, dobbiamo segnarci queste robe. Una cosa voglio sottolineare, Michele, questo è un pezzo che fa muovere la gente. Ma sì, di solito infatti lo collochiamo nella sezione conclusiva dei nostri concerti, che iniziano abitualmente in maniera più riflessiva per concludere di solito in maniera più vivace, e questo di solito provoca una crescente partecipazione anche nelle persone che ci ascoltano. E poi, come dire, io ho sempre pensato che cantautorato impegnato in qualche modo, come il mio, insomma, è ricco di, come abbiamo visto, di insomma riferimenti in un certo senso, non debba essere necessariamente cantautorato punitivo. Se la gente appunto esatto. Si diverte, mi fa molto piacere, insomma, ecco. Certo, assolutamente sì. Ma vediamo di capire un attimino quella che è la provenienza musicale di Michele, cercando anche di capire quelli che sono gli artisti importanti di riferimento, ovvero qual è la musica che più ti piace, che più ti senti parte della tua espressione. Molte cose. Io provengo come formazione dalla musica classica, per cui io adoro per esempio Bach e Mozart, per dire due nomi indiscutibili per tutti, penso. Amo profondamente Bob Dylan, invece cambiando genere, per esempio, che ha influenzato il mio pensiero oltre che la mia musica. Anche Dylan ha questa attenzione profonda all'amore, per esempio, e tante altre cose. Tra l'altro il 22 giugno Dylan suona a Milano e mi recherò a sentirlo con mio figlio di 8 anni, e penso sempre che quando lui sarà grande sarà come dire che ha sentito Giuseppe Verdi, no? Quindi... ed ha compiuto 70 anni da qualche giorno. Sì, infatti. E tante altre cose, tante musiche folk, un po' di quelle che tipo quelle che ho citato prima, la musica folk agli occitani, i vari folk americano, il folk inglese, adoro i Fairport Convention, Richard Thompson in particolare, personaggio che ho avuto la fortuna di incontrare una serata in cui abbiamo suonato nello stesso luogo. E posso chiederti come si comporta Richard Thompson sul palcoscenico? È un Van Morrison un po' così oppure no? È più aperto? Ma sul palco è indubbiamente un personaggio che si dà, insomma, pienamente. È una persona estremamente riservata, per quanto ho potuto notare incontrandolo nei camerini prima del concerto. Questa sua timidezza, questo, se posso usare questo termine per un artista che ha una storia così ricca, e questo quasi è quasi un velo di pudore che c'è in tutto ciò che lui fa, che a me piace molto. Anche la sua voce ha sempre questo tono lievemente dimesso, quasi volesse prendere una distanza dai suoi, insomma, testi. C'è sempre una forma di pudore che è una cosa rara, insomma, e a me piace molto. È un grandissimo artista, cioè uno che ha inventato il folk rock inglese, possiamo dire. Ma sì, decisamente, insomma, con i Fairport Convention, poi anche quei meravigliosi dischi che fece con sua moglie, certo, Linda, e tante altre cose, tante, insomma, collaborazioni. È un artista che tra l'altro c'è una sua opera, mi rendo conto che sto dando consigli turistici per gli acquisti, ma insomma mi fa piacere condividere, insomma. Lui ha osato produrre un cofanetto che si intitola qualcosa tipo 1000 anni di musica popolare, dove lui parte da queste canzoni medievali che inneggiano alla primavera e arriva fino alle canzoni di, non so, Britney Spears, il tutto all'interno della medesima opera. È un'opera estremamente seducente, come potete immaginare. Certo, solo per intenditori comunque, perché è anche difficile da trovare questa. Ma sì, ma si trova, cioè, viviamo nell'epoca di, insomma, internet, no? Quindi, certo, insomma, tutto si può trovare. Certo. Bene, e si possono trovare su internet, ma anche sui negozi di dischi, anche i tuoi CD, anche infatti, se da qualche parte si è arrivata notizia che qualche CD risulta già esaurito. Ma sì, ma ci sono, insomma, anche questi, insomma, negozianti, se comunque li riordinano, vengono, insomma, spediti. Mi fa piacere segnalare che chi tuttavia volesse sostenere con decisione la mia etichetta indipendente, che i CD sono anche acquistabili direttamente da noi. Se qualcuno va sui miei siti www.michelegazic.it oppure www.lanavedefolle.org, è tutto spiegato. Bene, benissimo. Ricordiamo l'etichetta indipendente, come si chiama? Sì, la mia etichetta ha un nome abbastanza altisonante, Fono Bisanzio. Okay. Non so, ricordate quel che i vecchi film italiani fino agli anni 50-60 erano sonorizzati da, insomma, Fono Roma, no? Sì, sì. Comunque mi piaceva comunque avere questo marchio un po' vintage, in un certo senso. Certo, Teodorico e Teodolinda saranno contenti. Ma sì, penso di sì, ma penso di sì. Loro sono però più longobardi, hanno preso residenza in quel di Ravenna dopo. Sì, vabbè. Sì, sì. Comunque, ok, stiamo piacevolmente conversando con Michele Gagic, conoscendo anche quella che è la sua musica. Allora, l'album blu corrisponde a 10 esercizi per volare. Andiamo ad ascoltarci giusto questo pezzo, poi esatto, torniamo commentandolo insieme. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Fatta al mattino, quando ti svegli ritorna bambino, torni bambino, il mondo è diverso, stai già volando nel cielo terzo. Secondo esercizio si fa in primavera, guardi una rosa finché viene sera, guardi la rosa e diventi il profumo, tu sai volare e non dirlo a nessuno. Il terzo esercizio può fare paura, lasci la strada, quella sicura, lasci per strada il tuo vecchio lavoro e con gli uccellini canti nel coro. Quarto esercizio impara a viaggiare, pensa che mondi hai da incontrare, se la tua pelle cambia colore, hai dato aria alla mente al tuo cuore. Il quinto esercizio è per quei professori che vedono picchi al posto dei fiori, chi ha scritto i libri che fate imparare, in volo da tempo e non vuole atterrare. Il sesto esercizio si chiama follia, stretta la foglia, larga la via, predichi e danzi, urli come un ossesso, hai preso il volo intorno a te stesso. Se giochi all'amore, batti le ali più in alto del sole, anima e corpo in un solo respiro, mentre la terra fa il solito giro. Numero 8, cadi nel pozzo, prova a guardare dentro di te, prova a vedere quello che c'è, se trovi la mappa comincia a volare. non esercizio, prova a pregare. La tua voce già sembra volare, la tua voce è sempre più fiato. Dio nel cielo ti sei avvicinato. Nasce tuo figlio, dentro i suoi occhi diventi bambino. Se vuoi dargli ali, stagli vicino. Ritorna indietro al numero uno. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. E abbiamo ascoltato anche 10 esercizi per volare, sempre con Michele Gazic, La nave dei folli. Pezzo bellissimo, tra l'altro in questo disco Michele suona il piano, che è una cosa inusuale per te, o usuale? Ma, io in realtà suono anche il piano, è uno strumento che amo di meno, del violino, della viola, dei vari archi, però ogni tanto lo suono ed è uno strumento che ho imparato ad amare più avanti. Per esattezza, non mi piaceva all'inizio della mia vita, perché come tutti i bambini di buona famiglia ero stato avviato prima al piano, e allora siccome era stato un po' un'imposizione, da bambino non lo amavo. Poi negli anni mi sono riavvicinato e in effetti nel secondo e nel terzo disco della Nave dei Folli lo suono io, e lo suono anche dal vivo, insomma, in buona parte delle canzoni. Certamente, questo è l'album blu, l'album del mito del volo, è l'album degli angeli praticamente. Sì, sì, ci sono proprio varie canzoni dedicate esplicitamente a degli angeli anche. E, questa immagine, i 10 esercizi per volare, tra l'altro, sottolineerei che gli esercizi, se praticati con regolarità, tendono a dare i loro frutti, quindi inviterei tutti a praticarli. No? Tutti i Dedalo in ascolto. Ecco, infatti, o Icaro. Praticateli. Ecco. E, tra l'altro questa è una filastrocca, come dicevo prima, come tutte le filastrocche, è in rima baciata, e anche questa è stata composta avendo mio figlio accanto. Ci sono molti angeli in questo disco, ci sono angeli anche che invidiano la finitezza degli uomini, tipo quelli del film Il cielo sopra Berlino, per esempio, no? Sì. Cioè angeli infiniti che vorrebbero essere finiti per provare delle sensazioni umane, essere troppo appunto perfetti, no? Oppure ci sono anche degli angeli in un certo senso sterminatori e consolatori, come quello che ho visto a Saorge, un luogo meraviglioso nell'ambito delle informazioni turistiche che vi do nel corso di questa trasmissione. Si trova poco dopo il Piemonte diversamente settentrionale, già appunto in Francia verso Nizza, ed è un luogo dove, pensate, c'è ancora la vegetazione alpina, ma si vedono anche gli ulivi perché arriva l'aria appunto di mare. Il cielo è sempre pulito, c'è una luce fortissima e quasi innaturale. Quando questa luce si comunque specchia nelle acque di un lavatoio meraviglioso che c'è là, sembra quasi di vedere un angelo, in effetti. Bellissima, una bellissima immagine, quindi ancora turismo alternativo. Sì, infatti, se andiamo a appunto qualcuno mi volesse consultare in questo senso, anche sono disponibile. Benissimo, quindi ricordiamo anche i contatti, dove tu dicevi tra le altre cose, io non sono un artista lontano, sono molto vicino. Infatti sono appunto estremamente raggiungibile, e infatti penso che nessuno possa dire che io non gli abbia risposto, perché tendo sempre a rispondere a tutti quelli che mi scrivono per le questioni più svariate, dai miei siti che ho citato prima, michelegazic.it, lanavedefolli.org, ma ci sono anche pagine Facebook, per esempio, dove possiamo essere raggiungibili. E tu hai citato la data del 25 giugno a Brescia, una data molto importante. Poi ci sono altre date fuori d'Italia, sì, o d'Italia lo stesso? Sì, sì, siamo sempre in azione. Mi fa piacere segnalarne altre due in particolare, cioè il 26 giugno, il giorno dopo Brescia, siamo a Lecco, in questo caso è un matinè, cioè è alle 5 del pomeriggio, e si svolge in una bellissima villa sul lago di Como che si chiama Villa Caccia Dominioni. E poi mi fa piacere segnalare invece il concerto del 9 luglio, che nell'ambito di un piccolo tour che facciamo a quel punto in centro Italia, che si svolge all'Aquila, sì, città con la quale ho un legame molto forte, magari poi ne parliamo. Certo, poi ne parliamo, anche perché abbiamo in scaletta un altro pezzo da far ascoltare. Ce la facciamo, metterlo su? Che ora sì, sì, direi proprio facciamo, sì. Comunque un'altra cosa che volevo chiedere a Michele, tornando a bomba, quello che è il giorno che la rosa fiorì, c'è un il tuo libricino dove ci sono anche i testi tradotti in inglese, che comincia anche con un prologo. Esatto, prologo, esatto. Dove tu dicevi: e vivevo nella corte dei falsi poeti, e citi Ezra Pound, che è stato un letterario che ha creato anche una corrente importante qui in Italia, e poi anche Pierpaolo Pasolini, che è considerato uno dei più grandi intellettuali del XX secolo. Infatti, ovviamente non sono loro i falsi poeti, ecco, Tu li descrivi cuori in fiamme, deformati nello spasimo verso la bellezza, pizzoni e lucida demenza. Sì, è vero, sono comunque dei poeti che si sono spinti veramente fortemente per raggiungere, insomma, la bellezza, secondo me. Ezra Pound ha scritto versi meravigliosi, si parla di lui più in senso politico di esatto, solito, e questa è una vero, cosa che mi sembra estremamente riduttiva. A me piace leggerlo più come un mistico dell'amore, quale egli fu. Ha scritto versi meravigliosi come "quello che sai amare non ti sarà strappato", è un verso meraviglioso su cui ho anche costruito una canzone che parla di lui. Pierpaolo Pasolini è talento talmente esuberante, che si è espresso in talmente tanti campi. Io adoro per esempio tra i suoi film Il Vangelo secondo Matteo, che è un film che riguardo ciclicamente, penso almeno due o tre volte all'anno, e che mi ha sempre accompagnato. E anche tra l'altro è meraviglioso di quel film, al di là dell'immagine, spesso tratta da comunque dipinti rinascimentali, eccetera, e l'utilizzo del testo che è rigorosamente e solo Il Vangelo secondo Matteo è pazzesco, perché tra l'altro è sconvolgente come sempre il testo del Vangelo, e sentirlo così puro come commento alle immagini è veramente impressionante. C'è anche una stupenda colonna sonora, tra l'altro, che va da Bach alla musica africana, che consiglierei di gustare in particolare. Allora Michele, un ultimo pezzo dal vivo, se lo vuoi fare col tuo bel violino? Ma sì, vi suonerò qualcosa di atipico a questo punto, siccome vi ho parlato un po' della mia formazione anche. Vi suonerò un pezzo di musica barocca adesso, per cambiare un po', e che così suoniamo qualcosa che non ho scritto io. Questo pezzo l'ha scritto Corelli, che è un grande compositore del 600, contemporaneo di Vivaldi. Ne eseguiremo una versione, come dire, più sintetica, di modo che magari poi riusciamo ancora a scambiare due parole. Benissimo. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Stiamo andando verso la fine della nostra trasmissione, ma non vorremmo lasciare Michele Gazic. Il suo violino ci sta conquistando e ci sta conquistando anche la musica che ci ha proposto. Abbiamo visto molti pezzi dei vari CD, ne avevamo tanti qui sopra il tavolo della nostra redazione, li abbiamo ascoltati tutti, forse ci mancheranno, nel senso, un invito ancora agli ascoltatori di andare a curiosare nel tuo sito, Michele, andare a sentirsi la musica e, perché no, farsi propri i CD. Infatti mi farebbe certamente, appunto, piacere. Tra l'altro i nostri siti sono molto informativi, possono anche leggersi tutte queste recensioni di cui vi parlavo prima, che sono su riviste di folk, di rock, di classica, di poesia, insomma è anche una lettura curiosa i nostri siti, quindi inviterei a guardarli. Una cosa volevo chiederti, Michele, la scaletta dei concerti live la cambi di giorno in giorno o è una scaletta già prefissata? Diciamo che ogni tour ha una sua scaletta base, nella quale inserisco delle varianti, direi regolarmente ogni sera, anche perché ci sono fortunatamente delle persone che ci seguono con una certa continuità e mi fa quindi piacere che, tornando più volte ad ascoltarci, non risentano quello stesso concerto, insomma. Mi piace consegnare loro qualcosa di preconfezionato, insomma. Perfetto. Certo, io volevo parlare rapidamente anche se non è bello stringere con i tempi, anche di quello che è un progetto, diciamo, laterale alla trilogia, che parla sempre di Michele Gazic assieme alla Nave dei Folli, per questo CD, per questo piccolo CD formato di tre canzoni che si intitola Colle Maggio. Infatti questo piccolo CD è stato pubblicato nell'aprile dell'anno scorso ed è nato per lo spunto di Giuseppe Dell'Orso, professore di liceo all'Aquila, che, fan delle mie canzoni e amico, ne è stato in qualche modo sostenuto nei momenti difficili che, come tutti gli aquilani, ha attraversato. In un certo senso mi ha spronato a fare quest'opera che aveva un fine semplice e concreto, cioè raccogliere qualche soldo per cominciare i restauri di una chiesetta, Santa Maria degli Angeli, che è sede di una locale accademia musicale. Questi soldi li abbiamo raccolti effettivamente, senza tra l'altro fare tanto clamore come altri, e effettivamente i restauri sono, insomma, cominciati e torneremo tra l'altro all'Aquila, come dicevo prima, il 9 luglio, proprio per osservare la situazione. Benissimo, allora direi di ascoltarcelo e poi naturalmente torniamo per i saluti, purtroppo. Però molto intanto bene, ci ascoltiamo quest'altro bel pezzo che si intitola Colle Maggio. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. I cuori dei vivi accanto ai cuori dei morti, appesi alle giacche dei regnanti. Gas nervino a Colle Maggio, per l'avanti marcia dei vinti. Corde di ombra legano mani e case. Sei vivo ma non puoi tornare, anche la Pasqua non può tornare. La notte non lascia il cielo. Nel silenzio, qui la morte si fa sottile come pioggia dentro i vestiti. Case di carta, presepio tutto l'anno, effetto domino da Berlino. In centro all'Aquila i muri crollano, proibito entrare, altri proibito piangere, altri proibito deve sapere. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. E abbiamo ascoltato anche questa Colle Maggio, Michele Gazzic e La Nave dei Folli. Tra le altre cose, Michele, si diceva che questo CD è recuperabile in un'altra forma, oltre che nella solita pubblicizzata dal tuo sito. Sì, si può contattare direttamente anche il professor Dell'Orso, che è la cosa più semplice per ottenerlo, insomma, ma anche questo è spiegato sul mio sito, quindi c'è un'apposita rubrica Colle Maggio dove si spiega tutto. Bene, allora noi ringraziamo Michele Gazzic di essere stato qui con noi. Abbiamo già strappato la promessa fuori dalla diretta dicendo che prossimamente lo vorremmo avere anche con i suoi Folli, con La Nave dei Folli. Sì, ma infatti mi sono profondamente mancate, insomma, quindi loro lo sanno, e quindi tornerò sicuramente con loro al seguito. Tra l'altro spero di suonare in Veneto, cosa che non è avvenuta ancora, ma avverrà. Certamente. Sicuramente avverrà, anzi sarai il benvenuto assieme ai tuoi amici. Allora, per concludere, andiamo ad ascoltare la traccia numero 11. Tra altre cose, nei tuoi tre dischi ci sono 10 tracce nel primo, 10 tracce nel secondo, ci dovrebbero essere 10 tracce anche nel terzo. Invece scopro che c'è un envoi, come lo chiami tu, quindi una lettera, una sorta di comunque saluto, di congedo agli ascoltatori, perché si è chiusa una prima parte del nostro percorso assieme. E quindi mi è parso giusto, come dire, scrivere due note di saluto che traggono un po' la morale della storia. E quindi per finire ci ascoltiamo proprio questo pezzo. Sì, tra l'altro è un raro caso in cui lo canto io personalmente, perché visto che è la morale della storia, mi sono preso questa libertà e mi rivolgo ai miei ascoltatori come mi rivolgo abitualmente al mio pubblico, chiamandoli amici. Sottolineo che anche quando, se anche non si ricorderanno la canzone e se anche si dimenticheranno di me e io me ne andrò, resterà comunque l'amore che ha ispirato tutto ciò. Benissimo, allora Maurizio, noi salutiamo i nostri ascoltatori, ringraziamo ancora una volta Michele Gazzic per esserci venuto a trovare, e niente, allora noi vi lasciamo con questa atmosfera, con questo ultimo pezzo che ci vuole regalare Michele Gazzic, si intitola Ultima canzone d'amore ed è tratto appunto da Il giorno che la rosa fiorì. Grazie a tutti, buona serata e a risentirci, e tanta buona musica. Bye bye. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Amici cari, ma vi lascio una canzone. Io l'ho fatta con le pietre più preziose che conosco. Lo smeraldo per il mare, il turchese per il cielo, il rubino per il cuore, il diamante per il sole. Me ne vado, amici cari, ma vi lascio una canzone e vi lascio anche tre navi